Libia, la corsa di Haftar verso Tripoli, prima di Berlino. Iran parla a Rouhani. Polonia e scontro fra giudici e governo. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Alarm bells ringing across Europe as the balance of power seems to be changing in Poland. Protesters say the law will mark the end of the separation of powers between the government and the judiciary. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. 16:08, 8 secondi in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano, come ci sono Antonio Tali, Lara Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani in regia. 349-238-6666 è il numero che ben conoscete, tanto che ancora mentre andavano i titoli di coda anche quest'oggi arrivava già il primo commento di un ascoltatore su uno dei temi che toccheremo, l'avanzata di Haftar verso Tripoli. Probabilmente il generale, l'uomo forte, come viene definito, ormai un'etichetta un po' logora, a dire il vero, ma comunque tant'è, prima del vertice di Berlino. Parleremo anche di Iran, ma poi ci prenderemo una piccola pausa, almeno per una seconda, terza pagina di Nessun Luogo è Lontano, per fare il punto su quella che è stata una manifestazione eclatante e assolutamente inaspettata. Migliaia e migliaia di giudici hanno sfilato per le strade e le piazze di Varsavia. È in corso un vero e proprio braccio di ferro tra l'esecutivo polacco e i giudici stessi in Polonia. Con quali conseguenze per uno dei paesi più importanti del cosiddetto blocco Visegrad? Lo scopriremo tra pochissimo, ma comunque anche quest'oggi, come ogni giorno, la prima cosa da fare è andare a misurare la temperatura. La prima notizia, che naturalmente ha destato l'attenzione un po' di tutti, fresca, perché è uscita più o meno 35-36 minuti fa, lo avete sentito anche dal GR, il primo ministro russo Medvedev si è dimesso con tutto il governo dopo il discorso di Putin, rituale e annuale sullo stato della nazione. Un discorso, e avete sentito dal GR, in qualche modo Putin sta cercando di ridisegnare il sistema e il bilanciamento dei poteri della Federazione Russa. Sono già circolate un po' di analisi, ma i più attenti lettori e chi, ascoltatori, lettori e chi si interessa alle questioni russe avrà ricordato sicuramente che vi era stato nei mesi scorsi un vociferare su presunti tentativi o possibilità da parte di Putin di cambiare la Costituzione. Voi sapete che fino al 2024 è in carica come presidente, però quindi 4 mandati finora ha fatto. È il secondo mandato consecutivo. C'era l'ipotesi che si potesse cambiare questa legge della Costituzione per permettere a Vladimir Putin, tutt'oggi 67enne, di restare in lizza, restare all'interno dell'agone politico russo. Questa mossa invece, come dire, va a disegnare uno scenario totalmente diverso. Sostanzialmente dà la possibilità al Parlamento russo di nominare il primo ministro. La tesi che circola, che più mi convince, ma sono molto fresche, parliamo di, appunto, ripeto, mezz'ora fa, è quella che sostanzialmente vedrebbe, a partire dal 2024, un Vladimir Putin candidato a diventare premier, in qualche modo un gioco, un valzer delle parti, e vedremo se deciderà di rimanere nell'agone politico. Le dimissioni di Medvedev invece potrebbero essere lette come la possibilità per Putin, che tuttora come presidente può andare a nominare il premier, di nominare un delfino, di nominare un suo successore che, nel caso di abbandono della scena politica, potrebbe continuare la sua politica. Andiamo in Cisgiordania o West Bank, se preferite. La notizia è stata battuta dalle agenzie qualche ora fa. Vi sono stati dei disordini nei pressi di Nablus per la demolizione di 2 abitazioni abusive da parte di un gruppo di coloni israeliani, cosa che è accaduto altre volte in situazioni simili. Vi è stato addirittura un fitto lancio di pietre da parte dei coloni israeliani contro l'esercito israeliano stesso. Ancora una volta si vede come la politica nei territori, nei cosiddetti territori occupati, lasci spazio a frizioni non soltanto israele-palestinesi, ma a volte anche nella stessa compagine israeliana, benché da un lato vi siano i coloni e dall'altro, appunto, le forze dell'ordine israeliane. Turchia. Mentre è arrivata la notizia che la mia redazione mi ha appena segnalato dell'arresto e della chiusura della sede al Cairo, Egitto quindi, dell'agenzia greca Anadolu, con l'arresto di 3 dipendenti egiziani, e questa la dice lunga sul livello di attrito che esiste ormai fra la Turchia e l'Egitto, che sullo scacchiere libico sono avversari, proprio quest'oggi i cittadini e la società civile turca festeggiava il ripristino online di Wikipedia dopo ben 3 anni. Pensate un po', questa la dice lunga sulle contraddizioni enormi di questo paese candidato a entrare in Unione Europea, membro della NATO, un paese che ha avuto una deriva sul piano dei diritti umani, di libertà dell'espressione. Ricordo, è probabilmente la prigione a cielo aperto più ampia del mondo per i giornalisti, che è diventata francamente discutibile. Questa è la notizia del termometro. Prima di portarvi a Varsavia per andare a dare voce a quella che è stata uno dei poteri dello Stato, che è sceso in campo perché si è sentito limitato, invaso nelle sue competenze, apriamo un piccolo capitolo che riguarda 2 dossier. Il primo è quello libico, il secondo è quello iraniano. Su Libia, per la stretta attualità, evidentemente vi rimando ai GR24, mi permetto solamente di sottolineare un paio di cose. La prima è evidentemente la scadenza del 19 gennaio, l'abbiamo ripetuto più volte, la conferenza di Berlino, che francamente, fatemelo dire, si preannuncia un grandissimo insuccesso per la diplomazia, ma questa è una mia opinione personale. Detto ciò, in vista di domenica, di questo summit, che dovrebbe in qualche modo almeno riportare un nuovo cessate il fuoco, non dico a una firma di un accordo di pace, ma quantomeno a un cessate il fuoco, vi segnalo invece uno scoop del Guardian, prestigioso quotidiano britannico, che ha scoperto, e le fonti che cita sono fonti anonime, ma arrivano da 3 paesi arabi diversi, insomma quantifica in almeno 2000 soldati siriani filoturchi che sono arrivati o starebbero arrivando in territorio libico per combattere al fianco delle milizie e dell'esercito di al-Serraj. I numeri sono molto importanti, ma anche le date. Provate a seguirmi perché è interessante anche la temporalità con cui sono arrivati. Prima data, 24 dicembre, quasi un regalo di Natale. 300 miliziani pronti ad andare sulla front line est di Tripoli. 29 dicembre, sto parlando del 2019, altri 350. 5 gennaio, 1350, altri in addestramento nel sud della Turchia e pronti a recarsi in Libia. Cosa è accaduto dal punto di vista strettamente formale? Questa è la parte più interessante dell'inchiesta del Guardian, a mio parere. Non sono stati assoldati, come dire, dalla Turchia, ma assoldati dallo stesso governo di Tripoli, quello riconosciuto dalle Nazioni Unite. Sentite bene, perché il contratto è di 6 mesi, lo stipendio è di $2,000 al mese, sempre secondo il Guardian, ma che può parere anche non tantissimo considerando che si rischia la vita in quel teatro, ma pensate che in Siria gli stessi combattenti combattevano per $80 al mese, in più assistenza sanitaria, rimpatrio della salma nel caso di morte e altra, come dire, ciliegina sulla torta che viene messa da parte della Turchia e dell'alleato Serraj, la concessione della cittadinanza turca. È bene ricordare che anche dall'altra parte Haftar, che tenta una lunga rincorsa, in realtà più breve possibile, in scadenza c'è appunto il 19 gennaio il summit di Berlino. Dobbiamo ricordare che il mese scorso sarebbero stati confermati l'invio di almeno 600 contractors della Wagner, quindi russi, oltre a 3.000 sudanesi reclutati proprio dalle milizie di Haftar. E giusto per completezza, perché molti ascoltatori mi chiedevano conto di come fosse possibile foraggiare queste milizie per così tanto tempo, stiamo parlando di un'offensiva che dura da aprile dell'anno scorso. Ebbene, il Washington Post, il Wall Street Journal, chiedo venia per l'errore, qualche mese fa riportava di milioni di dollari pagati dall'Arabia Saudita Haftar proprio in vista di questa offensiva. Naturalmente c'è da chiedersi che cosa vogliono in cambio i sauditi dopo aver elargito così grosse somme di denaro per poi prendere Tripoli. 349-238-6666, lo dicevo, i polpastrelli sono veloci quando si parla di Libia, segno che comunque questo tema, questo dossier è certamente importante per il pubblico italiano, ancor più per quello di Nessun Luogo Lontano. Tralasciando valutazioni etiche, Haftar mi sembra un uomo forte più del suo rivale, mette uomo forte, tra virgolette, l'ascoltatore Pierpaolo, più del suo rivale, così come a loro modo lo sono Erdogan, Putin, Trump, Xi Jinping, probabilmente come avete già detto in passato, ci vuole un comandante per tenere a freno le molteplici fazioni libiche. Pierpaolo, pienamente d'accordo, non c'è dubbio, diciamo che lo spirito nazionale libico mi sembra evaporato totalmente. Quello che starebbe funzionando nel caso di Haftar sono certamente elargizioni di denaro, nel caso di Tripoli anche, a sentire almeno l'inchiesta del Guardian, per ciò che riguarda l'invio di questi 2000 circa siriani che hanno già combattuto in Siria, si sono fatti le ossa e adesso sono pronti a combattere sul territorio libico. È interessante perché il Guardian riporta persino un account Twitter in cui c'era un video in cui uno di questi miliziani siriani, durante un'operazione di combattimento, avrebbe, oltre a urla di giubilo dopo aver respinto un attacco di Haftar, avrebbe cercato di urlare a morte Haftar, però sbagliando il nome, dicendo a morte Haftar o Haftan. Si gira verso un commilitone e gli chiede: ma come si chiama esattamente questo? Beh, insomma, questo ve la dice lunga anche sul livello di consapevolezza di questi combattenti stranieri. Domani torneremo sulla questione libica. Vi do una piccola anticipazione, è una chicca, perché in questi giorni, tra ragionamenti sulle milizie in campo, sui riflessi politici internazionali, ci stiamo dimenticando, noi no, per carità, però magari un po' i media in generale si dimenticano di una cosa fondamentale: in questa guerra ci sono in mezzo i civili. Allora abbiamo raggiunto un collega libico che non vuole essere nominato, possiamo solo dire che l'abbiamo raggiunto a Tripoli e lo facciamo per ragioni di sicurezza. Gli abbiamo chiesto una cosa tanto semplice quanto banale, ma direi quanto importante: com'è la vita quotidiana a Tripoli? Sentite. La vita di ogni giorno qui a Tripoli è molto influenzata da dove ti trovi e dalla zona in cui vivi. Nel centro, ad esempio, non ci sono stati bombardamenti molto pesanti e in qualche maniera siamo anche diventati abbastanza assuefatti. Ora, non è un buon segnale quando ci si abitua a una situazione anormale come un bombardamento, ma mi pare che ci sia qualcosa dentro di noi che ci conduce a vivere il tipo di vita che vivremmo comunque. Usciamo, lavoriamo, andiamo a scuola, eccetera. Però dipende molto da dove vivi. Nelle periferie che circondano Tripoli, moltissimi luoghi sono stati distrutti e moltissima gente ha perso le persone che amava. Sarebbe molto semplice per me dirvi che va molto male, ma so che per parecchie famiglie va ancora peggio. Allo stesso tempo, le aspettative di molta gente sono positive. Queste persone sono spaventate, ma almeno sono fuggite da zone nelle quali va peggio. Se le cose dovessero peggiorare anche a Tripoli, non avremmo altro posto dove andare e non sapremmo davvero cosa fare. Inoltre, moltissima gente in questo periodo deve vedersela con diversi tipi di disturbi mentali, dovuti alla paura e all'insicurezza. Questa è una voce in esclusiva da Tripoli che ci dà un'idea, uno spaccato di quella che è la società civile, i non combattenti, le famiglie, le donne, i bambini, ma anche i colleghi, i giornalisti, quelli che fanno il nostro stesso lavoro, solo che lo fanno tra i fischi delle pallottole e la paura delle bombe, dei razzi, magari dei droni emiratini che in queste ore stanno sorvolando anche la capitale libica. Domani ci torneremo e faremo di nuovo un punto su quella che anche l'assetto, la mappa delle fazioni, non soltanto delle milizie libiche, ma anche dei tanti attori esterni, perché vedo tanti messaggi. Il teatro libico è davvero complesso, quindi è assolutamente utile ricordare la struttura delle fazioni anche quotidianamente, perché davvero i cambiamenti possono essere tanti. Un ascoltatore, per esempio, ricorda, e l'ha letto, un interessante pezzo del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, proprio ieri ha mappato quelle che sono le varie milizie libiche in un'intervista. Uno dei capi delle milizie viene fuori in sostanza che la dinamica libica è davvero legata alle milizie, alle tribù, e si auspica una spartizione fra le tribù. Ancora una volta gli occhi occidentali fanno fatica a comprendere quello che sta accadendo. L'ascoltatore aggiunge: il rischio è davvero di una nuova Somalia. Il rischio c'è evidentemente, vedremo le contromosse europee. Si sta ancora parlando in questi minuti, in queste ore, di una possibile forza di interposizione. Il ministro Di Maio qualche giorno fa, ve ne avevamo dato conto, aveva rilanciato un'ipotesi di una missione stile UNIFIL, quella guida italiana che sta nel sud del Libano, che fa di interposizione fra Israele ed Hezbollah. Ma come giustamente ha scritto Daniele Ranieri sul Foglio, che molto spesso ospitiamo qui da noi, la situazione è assolutamente incomparabile. La fluidità della linea del fronte in Libia non è comparabile a quella solida e consolidata che c'è tra Israele e il Libano, e quindi insomma evidentemente ci vuole una risoluzione di diverso tipo. Per il momento la politica, non solo quella italiana ma anche quella internazionale, non va tanto al di là di alcune dichiarazioni un po' di prassi. La soluzione militare non è quella giusta, ci vuole un dialogo, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo davvero domenica cosa accadrà e saremo qua lunedì a darvene conto. Adesso velocemente apriamo anche il capitolo iraniano, poi davvero ci tengo a portarvi a Varsavia perché quello che è accaduto è veramente eccezionale, lo dico dal punto di vista strettamente etimologico, davvero non era mai successo. Allora, che cosa è accaduto invece in Iran? Che il presidente Rouhani ha parlato in un discorso televisivo molto lungo, poche ore fa, ha detto molte cose, vi segnalo quelle a mio parere più importanti. Allora, la prima: ha auspicato che tutte le forze straniere se ne vadano dalla regione, quindi non soltanto le forze americane ma le forze straniere in generale, e ha detto testualmente: oggi gli americani, i soldati americani sono in pericolo, domani potrebbero essere i soldati europei a essere in pericolo, ma non ha, come dire, chiarito meglio questa frase che suona davvero come un anatema. Dobbiamo ricordare che c'è anche il contingente italiano nella zona, sto parlando di Iraq e di Kurdistan iracheno. Questa dichiarazione arriva, badate bene, dopo l'invito di ieri di Francia, Germania e Regno Unito a rientrare sugli accordi sul nucleare. Quegli accordi però, ricordiamolo ancora una volta, violati dagli Stati Uniti e dallo stesso Trump che se n'è uscito. L'altra cosa che ha detto, ed è molto interessante in vista delle elezioni del Parlamento del 21 febbraio, saranno elezioni importantissime, cercheremo di seguirle il più da vicino possibile. Beh, allora ha detto, sempre Rouhani, il presidente iraniano, che il popolo vuole la varietà, quindi in sostanza ha detto all'apparato: cercate di selezionare candidati dalle anime politiche diverse, cercate di restituire la varietà delle anime della società civile iraniana anche nel Parlamento. E questo potrebbe essere un segnale interessante, perché la politica iraniana è molto sotto pressione, l'abbiamo raccontato con tanti particolari qui in Nessun Luogo Lontano, dopo l'abbattimento del Boeing ucraino con a bordo tanti cittadini. E poi ha concluso sempre Rouhani dicendo: è stato un disastro inimmaginabile, inaccettabile, e la Repubblica Islamica deve ricongiungersi e serve unità nazionale. Allora, 349-238-6666, un paio di messaggi, poi davvero ci spostiamo. Un'ascoltatrice: sono molto preoccupata per l'aumento di contractors nell'area, mercenari, che quando diventano senza lavoro sono davvero pericolosi, e sono d'accordissimo, benché prezzolati, altamente prezzolati, ma voglio dire, la crisi libica del 2011, la cosiddetta primavera araba, ci ha restituito proprio quel caos e quella serie di milizie. Se usassero tutti quei milioni per lo sviluppo economico il mondo sarebbe migliore. Gianpaolo da Monza, che evidentemente fa eco al ricordo di quell'inchiesta del Wall Street Journal che parlava di centinaia di milioni di dollari dati dall'Arabia Saudita al generale Haftar per condurre la sua offensiva. Forse sì, caro Gianpaolo, ma la politica internazionale è fatta di un cinismo esasperato, e non bisogna nascondere, sempre per la serie due pesi di misure, quando si parla di Iran e di Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita, tanto quanto l'Iran, cerca l'egemonia, e a volte con mezzi assolutamente più cinici, e a volte anche al di là di quella stretta area di competenza forse che dovrebbe essere riservata, no? Medio Oriente allargato e area del Golfo. Allora, detto ciò, c'è qualche anche messaggio di stigma. Viene la coppia Conte Di Maio, Premier e Ministro degli Esteri, vengono definiti agenzia di viaggi, facendo riferimento a una serie in effetti notevole di viaggi diplomatici per tessere questa tela. Vedremo, lo ripeto, domenica potrebbe esserci un grande successo, noi speriamo di celebrarlo lunedì qui da Nessun Luogo Lontano. Detto ciò, Roberta Frisani, lasciamo il Medio Oriente allargato e andiamo sulle strade di Varsavia. Złączym się z narodem. do Poznania, Ostertinza. I cori che sentite, che stanno inneggiando, appunto, perdonate il gioco di parole, stanno cantando l'inno nazionale polacco, sono cittadini, sono attivisti, ma soprattutto sono giudici, giudici polacchi, ma anche giudici in centinaia arrivati dai tanti paesi europei. E sabato scorso 15.000 manifestanti secondo il sindaco di Versailles, 25.000 secondo gli organizzatori, e in prima fila, come dicevo, le toghe dei giudici polacchi, ma anche di centinaia di giudici provenienti da tanti paesi europei. Cosa è accaduto? In sostanza si sta consumando un pericoloso braccio di ferro tra il potere esecutivo polacco e il potere giudiziario. Ci aiuta a capire di più che cosa è accaduto e anche l'eccezionalità di questo evento. Voi lo sapete, se seguite non solo l'attualità internazionale ma anche quella italiana, è raro vedere delle toghe in piazza. È accaduto qualcosa di eclatante. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Roberto Castaldi, docente universitario, analista, dirige il Centro Studi sull'Unione Europea. Lo potete leggere anche sull'Espresso. Dottor Castaldi, buongiorno. Benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, io ho riassunto il tutto con un epiteto piuttosto semplice: braccio di ferro tra potere giudiziario e potere esecutivo. Ci aiuti meglio a capire cosa è accaduto sabato a Varsavia? In realtà è un braccio di ferro tra il governo polacco e l'Unione Europea, oltre che l'ordinamento giudiziario polacco, perché negli ultimi anni il governo ha promosso una serie di riforme volte a mettere tutti gli aspetti dell'ordinamento giudiziario sotto il controllo dell'esecutivo, e queste riforme sono state impugnate nel Tribunale Costituzionale polacco, dalla Corte Suprema e infine a livello della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, oltre che del Consiglio d'Europa. E tutti hanno condannato queste riforme, ingiungendo al governo polacco di tornare indietro, di disapplicarle, cosa che non è avvenuta. E le ultime, quindi abbiamo avuto una serie di riforme continue che hanno portato all'esplosione, ad esempio, del Consiglio Superiore della Magistratura polacca dall'Associazione Europea dei CSM, perché non più indipendente. Il Tribunale Costituzionale polacco non è più considerato legittimo né dalla Corte Suprema polacca né dalle istituzioni europee, in virtù della riforma che ha reso tutti i giudici di nomina governativa. Il Tribunale aveva considerato incostituzionale la riforma e il governo ha risposto aumentando il numero dei giudici e facendo 90 nuovi giudici costituzionali, sì. E quindi cambiando la maggioranza del Tribunale, che da quel momento non è stato più considerato legittimo. Sì. Ha aumentato il numero dei membri della Corte Suprema e creando delle nuove camere disciplinari per sanzionare i giudici. Ha fatto una legge per il prepensionamento obbligatorio dei giudici che è stata bloccata dall'Unione Europea, e quindi ha modificato tutto l'ordinamento prevedendo che tutti i presidenti di tutti gli ordinamenti, di tutte le corti normali, siano di nomina governativa, e adesso ha creato una nuova procedura sanzionatoria sui giudici e una legge che obbliga a non applicare il diritto europeo, perché ingiunge di non fare mai un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o un ricorso alla Corte di Giustizia rispetto a leggi polacche che i giudici ritengono contraddittorie con l'ordinamento europeo. Quindi in pratica è una norma che ingiunge ai giudici di non applicare quello che è un obbligo secondo il diritto europeo, di ricorrere alla Corte di Giustizia se una norma nazionale è contraria al diritto europeo. Chiarissimo. Roberto Castaldi, ci ha enumerato quelle che sono, come dire, le ingerenze da parte del governo polacco nel potere giudiziario della Polonia stessa, ma in questo punto di riflesso anche dell'Unione Europea. Castaldi, io farei una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse e poi cerchiamo di mettere il grand'angolo, ampliare un po' la discussione e capire meglio questo braccio di ferro e questo precedente, se davvero può essere una nuova pietra miliare di nuovi rapporti di forza tra paesi in seno all'Unione Europea e l'Unione Europea stessa. Stia con noi. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart, nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Follower, follower, per averne fotografi anche la presaola. Ma per la polizza auto ne basta uno. Serio, Zurich Connect ti offre una polizza da 220 euro. Essere online è una cosa seria. Zurich Connect, online, da 150 anni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su zurichconnect.it. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quest'oggi la seconda pagina di Nessun Luogo è dedicata alla Polonia. Ci prendiamo un attimo di respiro dalle vicende caotiche e convulse di Libia e Iran, pur continuando a tenere un occhio sul Medio Oriente e il Mediterraneo allargati. Siamo in Polonia perché è successo qualcosa di eclatante, un'ingerenza da parte del potere esecutivo polacco sull'attività giudiziaria, anche sui poteri dell'attività giudiziaria, ha spinto centinaia di giudici, migliaia, considerando anche quelli europei, si sono radunati sabato pomeriggio a Varsavia, 15.000 manifestanti secondo il sindaco di Varsavia, 25.000 secondo gli organizzatori. Risposta da parte dell'Europa, per quanto, come dire, non particolarmente potente nei suoi strumenti, però di stigma nei confronti di questa ingerenza, con Roberto Castaldi, analista, docente universitario, dirige il centro di studi sull'Unione Europea, uno spin-off della Sant'Anna di Pisa, scrive sull'Espresso e si occupa di integrazione europea. Castaldi, ben ritrovato con noi. La domanda che volevo porle era quanto questa azione e reazione possa essere un precedente pericoloso, e così spiegherebbe la risposta europea. Prima però le faccio sentire le parole del premier polacco. There is 80%, 75-80% support, popular support for deep judicial reform in Poland. Così il primo ministro Morawiecki ha detto: c'è il 75-80% di supporto popolare per questa riforma dell'assetto giudiziario polacco. Sentite come ha risposto la piazza allora. Żadnego ministra Zbyszka nie może wpychać żadnego obywatela w ręce przestępstwa. Insomma, la risposta della piazza, a giudicare anche dai numeri di sabato, parrebbe negativa, ma vedremo. Roberto Castaldi, può essere un precedente pericoloso questo per l'Unione Europea? Beh, è un precedente pericoloso soprattutto in un punto, cioè il diritto comunitario è un diritto prevalente sul diritto nazionale e direttamente applicabile, così come lo sono le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno bocciato di fatto la riforma del giudiziario perché contrarie al principio dell'indipendenza della magistratura, ai principi fondamentali dell'Unione Europea e ad alcune norme specifiche del trattato riguardo ai diritti dei cittadini, tra cui il diritto a un giusto processo che si fonda sull'indipendenza della magistratura. Quindi il fatto che la Polonia non stia dando seguito a delle sentenze della Corte di Giustizia è una grave violazione dell'ordinamento giuridico europeo, quindi è un precedente molto grave e c'è in corso una procedura per sanzionare la Polonia, e questo è il vero elemento di difficoltà, cioè la Commissione ha attivato la procedura, ma per portarla a termine serve l'unanimità di tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Sì. Siccome sono in corso due procedure in contemporanea, sì, una verso la Polonia e una verso l'Ungheria, l'Ungheria mette il veto a favore della Polonia e la Polonia a favore dell'Ungheria. Sì. C'è da dire che nel governo italiano precedente il ministro dell'interno Salvini si era impegnato anche lui a mettere il veto per tutelare Ungheria e Polonia contro il tentativo dell'Unione di garantire lo stato di diritto in questi paesi. Sì. Sì. Grazie mille Roberto Castaldi per averci in qualche modo, come dire, aver sottolineato quella che è l'importanza di questi paesi. Sono membri dell'Unione Europea, però come dire, hanno avuto un atteggiamento piuttosto ambiguo su vari temi. Grazie mille, lo ripeto, Roberto Castaldi, analista, dirige il Centro Studi sull'Unione Europea, lo potete leggere sull'Espresso. Castaldi, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. Misurare la democrazia dalla piazza è la negazione della democrazia stessa. La democrazia si misura solo alle urne, così un ascoltatore al 349-238-6666. La piazza che hai fatto sentire, dice un ascoltatore, sono come le sardine, minoranza pura. Hanno fatto bene in Polonia, ci vorrebbe pure in Italia contro lo strapotere di gente che vince un concorso e si crede Dio, così Fabio, non è che si crede Dio, è che il giudice studia per anni, fa un concorso pubblico, diventa giudice e poi fa il suo lavoro. E cara grazia che esiste la divisione dei poteri, perché questa è la base della democrazia. Quello che stiamo raccontando quest'oggi è un precedente che potrebbe essere pericoloso, però io vi invito a non riportare alle questioni prettamente italiane quello che sta accadendo in Polonia, ma piuttosto cercare di misurare una dimensione europea, perché forse questa è la, come dire, la bussola che più meglio, perdonate, ci farà capire quelle che sono le altre sfide della Polonia e in parte di Visegrad all'Europa. Da una parte c'è il sistema giudiziario, lo avete sentito. Dall'altra parte c'è l'immigrazione, per esempio. Sentite ancora il primo ministro polacco sull'immigrazione. In Africa there is 1.1 billion people. So what's our reply to this? How many people can we accommodate in Europe? 2 million, 12 million, 22 million. Insomma, state sentendo il primo ministro polacco che dice c'è 1 miliardo di persone in Africa, quanti dobbiamo accoglierne qua in Europa? 1 milione, 2 milioni. Dobbiamo ricordare che Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria sono oggetto di un procedimento alla Corte di Giustizia Europea per aver rifiutato di partecipare alla ridistribuzione di 120.000 richiedenti asilo provenienti da Grecia e Italia per far fronte all'ondata migratoria del 2015, vi ricordate, quando la crisi, l'emergenza migrazione era davvero emergenza immigrazione. Ma come sapete questi paesi hanno ignorato gli obblighi dell'Unione Europea. Insomma, in sostanza dicono sì, stiamo in Europa, però alcune cose dell'Europa non ci piacciono, ad esempio la ridistribuzione dei migranti. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Matteo Tacconi, giornalista freelance da 15 anni, segue da vicino le vicende dell'Europa centrale e dei Balcani. Buongiorno Matteo, ben ritrovato. Eccomi qua, ciao. Allora, Matteo, domanda che sembra banalissima, ma in realtà è credo la domanda chiave. Perché l'esecutivo polacco ce l'ha a morte con i giudici? Ma bisogna partire da lontano. Nell'89 cade il comunismo in Polonia. C'è una trattativa tra Solidarność, il grande movimento che di dissenso, di protesta al regime, e il regime stesso, e si decide una transizione patteggiata in modo tale che si va verso la democrazia, ma i comunisti, poi divenuti post-comunisti, rimangono nel perimetro del gioco in un qualche modo, riciclandosi, eccetera, eccetera. Per Kaczynski, il leader della destra polacca, e Morawiecki, il premier, il sistema giudiziario incarna quel patto con il diavolo, che di fatto ha impedito alla Polonia di essere un paese sovrano. Perché? Perché loro dicono che la Polonia è stata svenduta alle potenze straniere, ai capitali straniere, eccetera, eccetera, e i giudici sono l'elite che personificano quanto successo nell'89. Sì. Kaczynski era favorevole a quel patto, paradosso. Sì. Quindi c'è questa ragione biologica, c'è questa ragione fortemente ideologica, sì, e tutto parte da qui. Sì, versione, come dire, spiegazione ideologica ma anche estremamente politica, che affonda le radici nella storia più recente della Polonia. A questo punto, Matteo, io farei sentire la voce di un collega, Wojciech Zibilski, che dirige la testata online Visegrad in site. Sentite le reazioni, intanto poi sentiremo ancora la sua voce, del governo polacco alle proteste di piazza di Varsavia. Vi ho detto di questi 25.000, secondo gli organizzatori, in piazza nella sola Varsavia sabato scorso. Il governo polacco sembra indifferente sia alle pressioni interne che a quelle internazionali, almeno per il momento. Tuttavia, questa potrebbe essere semplicemente una tattica, perché da una visione di insieme, complessivamente, si tratta di una cattiva notizia che disturba il governo nel suo piano di condurre la riforma in Parlamento senza fastidi. E questo non direttamente a causa della pressione internazionale, e neanche a causa delle proteste nelle strade polacche o di altre voci dissenzienti, ma perché la Commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di sospendere tutti i procedimenti provenienti dalla Polonia, e questo potrebbe avere un impatto reale. Quindi tutta questa discussione, sia interna che estera, ha esercitato una pressione sulla Commissione europea, e adesso la Commissione e la Corte di giustizia europea potrebbero adottare delle azioni molto rilevanti per i prossimi sviluppi. La voce di Wojciech Zbilski, direttore di Visegrad Insight, un testimone che segue con grande attenzione ciò che accade nel cosiddetto blocco Visegrad. Tra poco solleciteremo ancora Matteo Tacconi su un grande paradosso di alcuni paesi del blocco Visegrad che in qualche modo prendono il buono dell'Europa e poi con grande astuzia politica vanno a stigmatizzare le stesse istituzioni europee. Prima Matteo, tu rimani con noi, andiamo a sentire le strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati, ancora una buona giornata, ascoltatrici e ascoltatori. In questa ultima pagina di Nessun luogo è lontano andiamo più dentro a quella che è la politica, anche economica, se volete, di almeno un paio di paesi del blocco Visegrad, Polonia e Ungheria. Lo facciamo con Matteo Tacconi, giornalista freelance, esperto dell'area, che da anni segue da vicino quelle dinamiche. Matteo, fra l'altro, al 349-238-6666, il tema Visegrad è assolutamente divisivo e c'è, ripeto, molti che, come dire, invocano quel modello anche per l'Italia. Cerchiamo di capire meglio quel modello polacco, perché alla fine il PIL di questi paesi è cresciuto, le economie sono andate bene, hanno accolto anche aziende private che arrivavano dall'estero, insomma hanno proposto un modello nuovo. Sì, io direi che è stato proposto il nuovo patto sociale fondato su questo scambio, limitazione dei pesi e dei contrappesi che sono il sale di una democrazia, dello Stato di diritto, attacco o presa, che dir si voglia, della giustizia, tentativo di mettere un po' la museruola ai media, un po' di tasse salate per i grandi capitali stranieri che si sono divorati il paese in questi anni in cambio di molti soldi nelle tasche. Il governo polacco, grazie a questa crescita surriscaldata, perché nel 2018 è stata del 5,2, l'anno scorso del 4, è riuscito a fare delle politiche sociali mai viste nella Polonia post-comunista, post-89, assegni familiari, sgravi fiscali, eccetera, eccetera. E questo patto sociale ha funzionato, può piacere o non piacere, ma è una risposta ai problemi comunemente sentiti dello sviluppo del corrente sistema economico, certo, da destra, ma è una risposta e questo ha portato consenso, ha funzionato. Certo, e questo è un aspetto. 349-238-6666, ci sono altri aspetti che alcuni ascoltatori con grande lucidità, devo dire, mettono in luce, in particolare Pierpaolo, che aveva scritto prima su Haftar. Se ci sono queste posizioni non comunitarie sulla giurisprudenza, sull'immigrazione, forse dovremmo rivedere il nostro concetto di Europa. Che cosa vogliamo veramente? Così si chiede l'ascoltatore, ma credo questa sia un'osservazione molto, molto interessante e molto intelligente. Dall'altra parte però, Matteo Tacconi, abbiamo un'Unione Europea, e l'ha sottolineato anche l'ospite che ti ha preceduto, che non ha reali strumenti per, tra virgolette, evidentemente punire, sanzionare comportamenti che vanno al di fuori dei comportamenti comunitari. Forse questo è il vero vulnus di questa Europa che molti dicono così fragile, così debole. Ma sicuramente, come sottolineava il docente che prima ha interpellato, sì, è in corso da ormai mesi, ma credo 2 o 3 anni, una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 7 dei trattati comunitari, che potrebbe prevedere come esito finale una sospensione del diritto di voto su determinate materie della Polonia al Consiglio europeo. Tutto è fermo, tutto è in stallo, perché ovviamente manca un consenso, perché ovviamente, oltre a non avere questi strumenti incisivi, l'Unione Europea è dilaniata al suo interno dal confronto tra democrazie liberali o non liberali, quali la Polonia o l'Ungheria. Orban è il vero maestro di Kaczynski. Kaczynski, quando vince le elezioni nel 2015, lo fa con questo motto: porteremo Budapest a Varsavia. E questo, insomma, lascia ben intendere a chi si ispira l'attuale governo polacco. Poi ovviamente ci sono differenze chiarissime tra certo. l'Ungheria e la Polonia. La Polonia, per esempio, mi permetto di dire, ha più anticorpi, ha una società civile più vibrante, ha delle città più grandi rispetto all'Ungheria, e quindi anche, come dire, un ceto urbano riflessivo che in Ungheria non c'è, e lo vediamo anche da queste proteste. Questa è stata solo l'ultima di questi ultimi 4-5 anni. Sì, e naturalmente, Matteo Tacconi, vedremo come evolverà, perché lo dicevamo prima con Roberto Castaldi, potrebbe essere un precedente anche importante per l'evoluzione politica dell'intera Unione Europea. Grazie mille, Matteo Tacconi, per essere stato con noi. Lo ricordo, giornalista freelance. Se volete saperne di più, matteotacconi.com è il suo sito, potete seguire i suoi lavori, le sue analisi. Grazie mille, Matteo, alla prossima, buona giornata. Alla prossima, grazie. Tra poco vi rifaccio sentire la voce del direttore di Visegrad Insight, devo però e voglio leggere alcuni dei messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Modello nuovo, tra virgolette, caro Giampaolo, mi scrive un ascoltatore, mi sembrano più fascistoidi che modelli nuovi. Io qua non sarei così netto, su questa etichetta. Sempre quel descrivere l'Europa come buona e il resto cattivo, quello schiacciarsi a un'Europa decadente, così finisce un lungo messaggio di un ascoltatore che stigmatizza evidentemente il mio approccio a questa questione. Qualcun altro che dice: a Polonia e Ungheria non piacciono gli immigrati, ma i finanziamenti europei sì, che si tolgano a chi non rispetta le regole. Insomma, anche gli ascoltatori di Nessun Luogo Lontano si dividono. Mentre è interessante un altro messaggio che è arrivato proprio in questi secondi: l'Europa è un unico paese, deve essere riformato, un unico esercito, una polizia transnazionale, Ministero degli Esteri europeo, Ministero di Grazia e Giustizia europeo. Bisogna riformare completamente tutto, così non possiamo andare avanti in ordine sparso. Siamo deboli, facciamo ridere il mondo. Forse l'SMS o il WhatsApp, se preferite, più plastico per definire l'attuale stato di salute della politica europea, così scomposta su tanti dossier. Allora, torniamo a Visegrad Inside, questa testata online, che è un ottimo osservatorio su tutto ciò che accade in Slovacchia, ma anche in Ungheria, perdonatemi, e anche in Polonia. Qualche ascoltatore ha detto: alla società civile che protesta sono pochi. Ma allora, chi di questi si sta opponendo alla riforma decisa dal governo polacco, che va a limitare i poteri dei giudici? Sentite. So let me start with that the majority of the society do not support what the government is doing with the... Allora, la maggior parte della società polacca non approva quello che il governo sta facendo con i tribunali. C'è una parte dei movimenti della società civile che si sta organizzando in proteste per difendere i tribunali che davvero non hanno precedenti, non solo in Polonia, ma forse anche nella storia di altre democrazie. A queste proteste prendono parte attivisti legati a gruppi per il rispetto dei diritti umani, per la libertà di parola o per il rispetto delle minoranze, e un gran numero di giudici, avvocati e accademici. Si tratta di quella parte di società che costituisce assolutamente il tessuto di un sistema democratico e che rappresenta davvero il terzo potere dello Stato, quello giudiziario. Le proteste si stanno svolgendo in tutta la Polonia e coinvolgono i principali esponenti del sistema giudiziario polacco. Ovviamente c'è anche l'opposizione, e l'opposizione sta facendo la propria parte nel corso di una normale dialettica parlamentare. È importante sottolineare che in questo momento nel sistema polacco il Senato è controllato dall'opposizione, anche se per pochi voti. Il presidente del Senato, il professor Tomasz Grosi, sta adottando dei passi moderati e allo stesso tempo molto importanti per assicurare un'adeguata procedura di revisione di questa norma, il che essenzialmente significa che il Senato respingerà la legge e la restituirà alla Camera bassa. La Camera bassa è controllata dalla maggioranza di governo e quindi probabilmente alla fine rigetterà le revisioni operate dal Senato. To overrule rejection by the Senate if they want it. sembra una storia che potrebbe essere relegata a qualche pagina, la sesta, la settima, l'ottava di un quotidiano. In realtà è una notizia importante, è accaduta sabato pomeriggio una manifestazione di toghe, ma non soltanto a Varsavia, ma in realtà secondo noi qui nel luogo lontano potrebbe essere un precedente molto importante che va a mettere in discussione e il riflesso che è arrivato dai tanti messaggi al 349-238-6666 lo conferma, le dinamiche dell'Unione Europea, il solipsismo di alcuni paesi all'interno dell'Unione Europea che vogliono i vantaggi ma poi non vogliono aderire a certe convenzioni comunitarie. Forse, come dicono alcuni ascoltatori, è il caso di ripensare, non dico l'idea stessa di Europa, ma magari alcune politiche comuni. C'è qualcun altro che dice no, attenzione, qua ci vuole unità, un esercito comune, una politica estera comune, ma insomma, vedremo. L'unica cosa certa è una, che è un ordine. Qui seguono i titoli di coda che servono per ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani, ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.